Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Sopravvivere, abitare dall'altra parte della propria vita. In fondo è molto comodo. Non si aspetta più niente, non si teme più niente e tutte le ore somigliano a ricordi. È questo che ho scoperto durante l'assenza di Nadine. Che riposo. Le porte in casa non sbattevano più. Potevo chiacchierare con Robert senza frustrare nessuno e vegliare la notte fino a tardi senza che nessuno venisse a bussare alla mia porta. Ne ho approfittato. Mi piaceva sorprendere il passato nel fondo di ogni istante. Soltanto avrei dovuto barricarmi in questa mia tomba. Ecco che per le strade bagnate di pioggia si incontravano uomini in pigiama a righe. I primi deportati che tornavano. Sui muri, nei giornali, fotografie e fotografie ci rivelavano che durante tutti questi anni non avevamo neppure sospettato il vero significato di questa parola. Orrore. Nuovi morti venivano a ingrossare la folla di quelli che le nostre vite già tradivano. E nel mio studio comparivano dei sopravvissuti che non avrebbero mai potuto, come me, riposarsi nel passato. Vorrei tanto poter dormire. Una notte, senza ricordarmi. Supplicava una che aveva il viso ancora fresco ma i capelli bianchi. Di fronte a loro, le domande che m'ero fatta mi sembravano vane. Quale che fosse l'avvenire del mondo, bisognava aiutare questi uomini e queste donne a dimenticare, a guarirsi. Il solo problema era che, per quanto accorciassi le mie notti, le giornate erano sempre troppo brevi, tanto più brevi adesso che Nadine è tornata. Ecco che di nuovo in casa sbattevano le porte, che i mobili cambiavano di posto, che cataste di libri s'abbattevano con fragore sull'impiantito. Nadine dormiva poco. Giudicava che dormire fosse una perdita di tempo, sebbene poi del suo tempo non sapesse bene cosa farne. Ma il suo umore migliorò di molto quando a Vigilance si cominciò a lavorare. Alle prese con compiti precisi si dimostrò un'eccellente segretaria e ne fu molto fiera. Il primo numero della rivista fu un successo. Robert e Henri erano tutti contenti e preparavano il secondo con ardore. Robert traboccava d'affetto per Henri, da che l'aveva convinto a legare le sorti dell'Espoir a quelle dell'SRL, e io me ne rallegravo, perché insomma, Henri è il suo solo vero amico. Julien, Lenoir, i Pelletier, i Conge, passavamo con loro qualche buon momento, ma era tutto. Tra i suoi vecchi compagni socialisti, alcuni erano stati collaborazionisti, altri erano morti in guerra. Charlie era andato a curarsi in Svizzera e quelli rimasti fedeli al partito lo coprivano di rimproveri. Laforie era rimasto deluso che fondasse l'SRL invece di aderire al comunismo e i loro rapporti mancavano ormai di calore. Robert non aveva più alcun contatto, per così dire, con gli uomini della sua età, ma non se ne doleva. Tutti quelli della sua generazione, se compreso, li teneva per responsabili di questa guerra che non avevano saputo impedire. E stimava d'aver conservato fin troppi legami col proprio passato. Voleva lavorare con gente giovane. La politica, l'azione, avevano oggi un aspetto e dei metodi nuovi ai quali voleva adattarsi. Le sue stesse idee stimava di doverle rivedere. Ecco perché ripeteva con tanta insistenza che la sua opera era ancora davanti a lui. Nel saggio che stava scrivendo, cercava di arrivare a una sintesi tra le sue vecchie idee e una visione nuova del mondo. I suoi scopi erano rimasti gli stessi d'una volta. Al di là dei propri obiettivi immediati, l'SRL si proponeva di alimentare la speranza in una rivoluzione che fosse all'altezza dei propri intenti umanitari. Ma Robert era convinto adesso che questa rivoluzione non avrebbe potuto compiersi senza gravi sacrifici. L'uomo di domani non sarebbe stato quello che Jaurès aveva definito con troppo ottimismo. Allora, che senso e che possibilità avevano ancora i vecchi valori? La verità, la libertà, la moralità individuale, la letteratura, il pensiero. Se si voleva salvarli, si doveva inventarli di nuovo. Era questo che Robert tentava, lo tentava con passione, e io mi dicevo soddisfatta che aveva ormai ritrovato il suo antico equilibrio tra lo scrivere e l'agire. Evidentemente era sovraccarico di lavoro, ma questo gli faceva piacere. E anche la mia vita era piena. Robert, Nadine, i miei clienti, il mio libro. Nelle mie giornate non c'era più posto per un solo rammarico, per un solo desiderio. Un pomeriggio, quando la portiera portò la posta, mi trovò sola in casa. Robert e Nadine erano a Vigilance. Aprii la lettera di Romieu ed ebbi paura, come se d'improvviso m'avessero proiettata nella stratosfera. Ci sarebbe stato un congresso di psicanalisi a Chicago in gennaio. Mi invitavano. Si sarebbero organizzate delle conferenze nella Nuova Inghilterra, a Chicago, nel Canada. Spiegai la lettera. La rilessi con una specie di stupore scandalizzato. Come avevo amato viaggiare. A parte qualche persona, non ho mai amato niente con più forza. Ma era una di quelle cose che credevo finite per sempre. Se magari m'avessero proposto una passeggiata in Belgio o in Italia. Ma New York. Non potevo staccare gli occhi da questa parola insensata. New York era sempre stata per me una città di leggenda e da tanto tempo non credevo più ai miracoli. Un pezzo di carta era troppo poco per annientare il tempo, lo spazio e il senso comune. Cacciai la lettera nella borsa e me ne andai a gran passi per le strade. Mi pareva che qualcuno stesse burlandosi di me, giocandomi un tiro, e avevo bisogno di Robert per allontanare questa mistificazione. Salii con precipitazione le scale della casa Movan e bussai alla redazione della rivista. Robert mi sorrise. «Ti sei presa una vacanza?» «Sì, ho avuto voglia di fare un giretto». Nadine si voltò a suo padre. «Andiamo a bere un bicchiere al caffè di fronte, come l'altro giovedì?» «Ma sì», disse Robert. La faccia di Nadine si schiarì. Sedendosi al tavolino di marmo, chiese a Robert: «Non sei contento del mio lavoro?» «Oh, io sono più che contento, ma è piuttosto per te. Non è un lavoro che ti porterà lontano». «I mestieri non portano mai a niente, né vicino né lontano», disse Nadine con secchezza improvvisa. «Il giorno che avrò il coraggio di fare qualcosa di serio mi butterò nella politica». «Allora che aspetti per lavorare all'SRL?» disse Robert. Nadine vuotò il suo bicchiere d'acqua minerale. «No», disse, «non sono d'accordo. In fondo, voi siete contro i comunisti». Robert alzò le spalle. «Credi che la Forie sarebbe così amichevole se pensasse che lavoro contro di loro?» «Già, ma pare che proprio la Forie verrà a chiederti di non tenere il tuo comizio», disse Nadine con un piccolo sorriso. «Chi te l'ha detto?» «La Chaume, ieri. Non sono affatto contenti. Dicono che, invece di lavorare d'accordo con loro, l'SRL predica una politica contraria, che il suo comizio sarà una dichiarazione d'ostilità, che tu dividi la sinistra e che saranno costretti a cominciare una campagna contro di te». «Costretti?» disse Robert. «Ammirevole. E sono io che divido la sinistra». Aggiunse incollerito. «Non sono cambiati. Non cambieranno mai. Vorrebbero un'obbedienza cieca. Così al primo segno di indipendenza ci accusano di aggressione». «Naturalmente, se non sei del loro parere, ti danno torto», disse Nadine con voce ragionevole. «Tu fai giusto la stessa cosa». «Senti», disse Robert, «immischiati di politica o non te ne immischiare, ma non fare il pappagallo. Se ti servissi del tuo proprio cervello, capiresti che politica catastrofica è la loro». «Non possono agire diversamente da come agiscono», disse Nadine. «Se cercassero di prendere il potere, l'America interverrebbe immediatamente». Poi si alzò bruscamente. Era soddisfatta d'aver ottenuto il suo piccolo effetto e non ci teneva a lasciarsi trascinare in una discussione in cui evidentemente avrebbe avuto la peggio. «Me ne vado a spasso». Ci alzammo anche noi e tornammo a piedi per il lungo fiume. «Non voglio lasciarlo», pensavo. In altri tempi non avevo avuto nessuno scrupolo a lasciarlo solo. Ci amavamo come vivevamo, attraverso l'eternità. Ma ora sapevo che avevamo solo questa vita, già molto consumata, e che l'avvenire era pieno di minaccia. Robert non era invulnerabile. D'un tratto mi parve persino fragile. S'era sbagliato di grosso a contare sulla benevolenza dei comunisti, e la loro ostilità poneva dei gravi problemi. No, non era il momento di lasciarlo. Entrando nello studio, dissi con voce ironica: «Guarda un po' cosa mi scrivono». Tesi a Robert la lettera di Romieu, e il suo viso cambiò. Vi lessi una gioia che avrebbe dovuto essere la mia. «Ma è magnifico! Perché non mi dicevi niente?» «Perché a star via 3 mesi non ci penso nemmeno». Mi guardò sorpreso. «E per quale ragione? Sarà un viaggio sensazionale! Muoverti un po' ti farà bene». «Ce ne andremo in giro in bicicletta quest'estate». «Come cambiamento d'aria non sarà straordinario», sorrise. «Ma no, scommetto che se venissero a dirti che questo progetto è andato all'aria te ne affliggeresti chissà quanto». «È possibile. Aveva ragione. Ci tenevo già a questo viaggio. E anzi, il fatto di tenerci era appunto una delle cose che mi inquietavano. Tutti questi ricordi, questi desideri che si risvegliavano. Che imbarazzo. Perché venivano a disturbare la mia saggia piccola vita di morta? L'incontro di Robert con la Forie fu cortesemente tempestoso. Nessuno dei due alzava la voce, ma si trattavano reciprocamente da criminali di guerra. La Forie concluse in tono attristato. «Saremo costretti a passare all'attacco». Questo non impedì a Robert di preparare con passione il comizio previsto per giugno. Una sera, tuttavia, dopo una lunga conversazione con Samazel e con Henri, mi chiese a bruciapelo «Ho ragione o no di organizzare questo comizio?» Lo guardai sorpresa. «Mi avete spiegato in lungo e in largo, dopo il vostro incontro con la Forie, le ragioni per cui escludevate di cedere. Cos'è accaduto di nuovo?» «Non è accaduto niente». «Allora, perché avete cambiato opinione? Non credete più possibile forzare la mano ai comunisti?» «Sì, in caso di successo è improbabile che taglino i ponti», esitò. «Ma è su tutto l'insieme che mi interrogo». «Sull'insieme del movimento?» «Sì. Questa Europa socialista. Ci sono momenti in cui mi chiedo se non sia un'utopia. Non è facile distinguere tra una vera possibilità e un sogno. Non è stato Lenin a dire «bisogna sognare»?» «Sì, ma a condizione di credere seriamente nel proprio sogno. Ci credo seriamente io?» «È qui la questione». «Cosa volete dire?» dissi sorpresa. «Non è per sfida, per orgoglio, per compiacenza verso me stesso che mi ostino». «È strano che abbiate questo genere di scrupoli. Non diffidate di voi d'abitudine». «Diffido anche delle mie abitudini», disse Robert. «Allora diffidate anche di questa diffidenza. È forse per paura d'un fallimento o per timore di grosse complicazioni che siete tentato di cedere?» «Può darsi». «Suppongo che l'idea di una campagna comunista contro di voi vi sia piuttosto spiacevole». «Già, non m'è affatto piacevole», disse Robert. «Si fa un tale sforzo per farsi capire e loro creano sistematicamente i peggiori malintesi». «Sì», aggiunse, «è forse lo scrittore in me che consiglia vigliaccamente all'uomo politico di mostrarsi condiscendente». «Da quand'è che pensate a lasciar cadere l'SRL?» dissi. «Da 2 o 3 giorni». «Senza nessuna ragione speciale?» Robert sorrise. «Senza nessuna ragione speciale». Lo considerai. «Non sarà semplicemente perché siete stanco?» «Sono un po' stanco, è vero». Vidi d'un tratto che era vero. Aveva l'aria molto stanca. Gli occhi arrossati, la pelle grigia, il viso flaccido. Il fatto è che non è più giovane, pensai inquieta. Grazie a Dio Nadine aveva smesso di trasmettere a suo padre i rimproveri dei suoi compagni comunisti e non ci sommergeva più di diatribe contro l'imperialismo americano. Non fui sorpresa quando all'improvviso mi dichiarò: «I comunisti, in fondo, è la stessa cosa che i borghesi». «Come sarebbe?» «Non sono per niente dei rivoluzionari», disse. «Sono per l'ordine, per il lavoro, per la famiglia, per la ragione. La loro giustizia è per l'avvenire. Per il momento s'adattano all'ingiustizia come gli altri». E poi la loro società... Ebbene, sarà sempre una società. Evidentemente. Se bisogna aspettare 500 anni perché il mondo alla fine non si ritrovi neppure cambiato, la cosa non mi interessa più. Il meglio è di restare come Vincent. È un puro lui. Un angelo. Un angelo. La stessa parola che aveva impiegato per Diego. Probabilmente ritrovava in Vincent quella generosità e quella stravaganza che avevano già una volta toccato il suo cuore. Solo che Diego metteva la propria follia nei suoi scritti, mentre Vincent si poteva temere che facesse passare la sua nella propria vita. Andava a letto con Nadine? Non credo, anche se nelle settimane seguenti presero a vedersi molto spesso. Comunque ero contenta di vedere che Nadine pareva allegra, per quanto un po' agitata. Così non ebbi alcuna apprensione una mattina alle 5, quando sentii suonare il campanello. Nadine non era rientrata e supposi che avesse dimenticato la chiave. Ma, aperta la porta, vidi Vincent. Disse: «Non inquietatevi». Fu questo che mi inquietò subito. Dissi: «È successo qualcosa a Nadine?» «No, no», disse. «Sta benissimo. Tutto si accomoderà». S'avviò deciso in salotto. «Ma anche Nadine è una donna», disse in tono risentito. Tirò di tasca una carta topografica che spiegò sulla tavola. «In due parole, Nadine vi aspetta a quest'incrocio», disse indicando l'incrocio di due piccole strade a nord-est di Chantilly. «Bisogna che vi procuriate un'automobile e che andiate immediatamente a cercarla. Perron vi presterà sicuramente la macchina del giornale, ma non dategli spiegazioni. Chiedetegli la macchina e nient'altro. Soprattutto non parlategli di me». Fermai bruscamente la macchina e Nadine si avvicinò senza fretta. Chiese con voce del tutto naturale: «Sei venuta a cercarmi?» «No, ero in gita di piacere». Aprì lo sportello. «Sali». Nadine si tolse le scarpe e le spinse sotto il sedile. «I miei poveri piedi», disse. «Cosa avete fatto?» Non rispose. «Va bene, tieniti i tuoi segreti, ma sarà nel giornale di stasera». «Nel giornale?» si raddrizzò col viso alterato. «Credi che la portiera abbia notato che questa notte non sono rientrata?» «Non potrà provarlo, e io potrò sempre giurare il contrario, ma voglio sapere cosa avete fatto.» «Ma, visto che verrai a saperlo in ogni modo, c'è una donna, ad Azincourt, che ha denunciato due bambini ebrei nascosti in una fattoria. I bambini sono morti. Tutti sanno che è stata lei, ma aveva certi appoggi e ha potuto cavarsela. Una porcheria di più. Vincent e i suoi compagni hanno deciso di punirla. Questa volta avevano bisogno di una donna. Li ho accompagnati. Questa donna è la padrona d'un caffè. Abbiamo aspettato che gli ultimi clienti se ne fossero andati, poi sono entrata io con la scusa d'un bicchiere d'acqua. Poi, mentre mi serviva, sono entrati gli altri. Adesso è in cantina.» Nadine tacque. Io chiesi: «Ma non l'hanno...» «No», disse vivamente. «Ma l'hanno corretta», aggiunse con voce improvvisamente imbaldanzita. «Io non me la sono cavata male. Ho chiuso la porta, ho spento la luce, ho aspettato di sopra bevendo un po' di cognac. Ma certo, non sono abituata, è stato troppo lo stesso. Poi avevamo già fatto una quantità di chilometri per venire da Clermont e loro volevano ripartire da Chantilly. Non ce l'ho fatta più a camminare. M'hanno portato a braccia fino a quel boschetto, m'hanno detto di aspettarti lì. Ho avuto il tempo di rimettermi.» L'interruppi. «Adesso devi darmi la tua parola che romperai ogni rapporto con quella banda, o lasci Parigi questa sera stessa. In tutti i modi non vorranno più saperne di me», disse con una specie di rancore. «Questo non mi basta. Voglio la tua parola, o ti giuro che domani sarai lontano, ma proprio lontano.» «Prometto tutto quello che vuoi», disse con aria triste. I giornali della sera non dicevano niente. Ma non dormii lo stesso quella notte. «Il viaggio in America è fuori questione», mi dissi. Nadine era in pericolo. Qualche giorno dopo ebbi un'idea. Passai all'Espoir e chiesi di Lambert. «Dovete parlarmi?» disse cortese. «Sembra che andiate a fare un gran reportage in tutta la Francia», attaccai. «Sì, parto la settimana prossima in motocicletta. Vi sarebbe possibile portare Nadine con voi?» Mi guardò con una specie di rimprovero. «Nadine ha voglia d'accompagnarmi. Muore dalla voglia, ma certo non ve lo domanderà per la prima. Non gliel'ho proposto perché mi sorprenderebbe che accettasse. Non accetta quasi mai quello che le propongo. Del resto l'ho vista pochissimo questi ultimi tempi.» «Lo so», dissi. «Va in giro con Vincent e Césénac. Non sono compagnie che facciano per lei.» Esitai e aggiunsi rapidamente: «Anzi, sono compagnie pericolose. È per questo che sono venuta. So che avete dell'amicizia per lei. Portatela lontano da tutta quella banda.» Lambert rimase un istante in silenzio. Sembrava commosso. «Sarei molto contento se Nadine venisse con me», disse. «Allora provate e non scoraggiatevi. Suppongo che da principio dirà di no, ma insistete. Le salverete forse la vita.» 3 giorni più tardi, Nadine mi disse in tono negligente: «Figurati! Quel povero Lambert vuole portarmi in viaggio con lui.» «Per quel reportage attraverso la Francia? Ma sarebbe molto faticoso», dissi. «Oh, di questo me ne infischio. Ma prima di tutto non posso lasciare la rivista per 15 giorni. «Hai diritto a una vacanza. La questione non è questa. Ma se non hai voglia...» «Nota che sarebbe molto interessante», disse Nadine. «Ma 3 settimane con Lambert è un prezzo un po' salato.» «Non hai il diritto ad essere così severa con Lambert. Di piuttosto che non vai d'accordo con lui, che questo viaggio non ti diverte. È un'altra cosa.» «Oh, in un certo senso i viaggi mi divertono sempre.» 2 giorni dopo venne a dirmi con un'aria mezzo furiosa, mezzo lusingata: «Ma è straordinario quello. Adesso mi fai ricatti. Dice che fare il corrispondente di pace lo strazia e che se non vado con lui lascerà perdere.» «E allora?» «Allora? Che ne pensi?» disse con aria innocente. Alzai le spalle. «Ma sa guidare la motocicletta, almeno? Sono pericolosi quegli aggeggi.» «Non sono pericolosi per niente. Poi è una cosa formidabile. Se accetto», aggiunse, «sarà per via della motocicletta.» Contro ogni attesa riuscì a passare gli esami di chimica. Festeggiamo tutti e 3 quel trionfo con un gran pranzo allo champagne in un ristorante all'aperto. E poi Nadine partì con Lambert. Una fortuna. Thank you.